Siamo con Prince Faster, una delle voci storiche della radiofonia rock romana, per parlare di un nuovo progetto, Radio Elettrica, che sarà online dal prossimo 15 ottobre. Prince, ben trovato. Buongiorno a te, buongiorno a tutti quelli che ci ascolteranno. Bentrovato. Ci racconti? Dunque, cosa vuoi sapere? Che abbiamo fatto questa radio? Beh, sì. Per la passione di fare radio prima di tutto, perché oramai, come tu pensai, l'FM è diventata impraticabile perché ha dei costi pachidermici, a meno che tu non sia una sorta di multinazionale. Oramai le radio libere esistono e sono pochissime, ci sono delle piccole sacche di resistenza, come tu ben sai, dove tu trasmetti, se non ricordo male, Certo. ma per il resto sono diventate impossibili da praticare. Quindi il discorso della radio web è quello forse più vicino al mio modo di fare radio, cioè dal basso, con la libertà di poter scegliere cosa fare, con chi fare e cosa trasmettere. Dopodiché noi siamo nati come associazione ONLUS, cioè senza scopo di lucro, e per cui c'è anche la radio, ma il progetto si articola non solamente sulla radio, ma noi daremo voce a tutte le associazioni, anche queste dal basso, associazioni di volontariato che operano nelle periferie, nelle città, le ONLUS che si occupano di adozioni a distanza. Insomma, è un discorso molto più ampio. Diciamo, la mission è proprio questa. Poi c'è anche la musica, ovviamente. Quindi musica e trasmissioni tematiche. Sì, tematiche dedicate proprio a questo. Ripeto, uno dei nostri obiettivi è quello, ripeto, di poter dar voce a queste realtà che sono importantissime, insomma, per tutte le comunità dove operano, è chiaro. Come si compone il gruppo? Ma il gruppo è un gruppo molto eterogeneo, nel senso che c'è gente che trasmetteva con me da tanto tempo, amici che non vedevo da tempo, poi altre persone si sono aggregate. Insomma, come tu ben sai, poi diventa, no, una sorta di passaparola, e quindi siamo stati contattati, abbiamo contattato delle persone, il tutto in una veste molto molto tranquilla, perché alla mia veneranda età ho deciso che basta discussioni, basta riunioni fiume, cioè si fanno le cose con un sì, ok, va bene, fallo, ok, va bene, parliamone 5 minuti, ma poi basta, perché siamo tutta gente, insomma, abbastanza matura, non solo dal punto di vista dell'età, ma anche mentale, per capire che, insomma, le cose si devono fare con serenità e assoluta tranquillità, vista, insomma, la situazione che c'è oggi. Doversi sobbarcare anche di discussioni, eccetera, non è nelle nostre idee, ecco. Senti, come funzionerà per quanto riguarda la redazione? Ci sarà un momento, di confronto settimanale o sarà tutto comunque comunicazioni rapide? A livello organizzativo? A livello organizzativo, sì, no, beh, noi ci vediamo praticamente tutte le settimane, adesso soprattutto ci stiamo vedendo un po' tutti i giorni, poi ci saranno delle riunioni settimanali, ci saranno delle riunioni trimestrali, ma insomma sarà tutto molto molto snello, senza snervarci più di tanto, anche perché la vita già è tanto stressante, caro mio, che ci dobbiamo mettere a stressare pure per fare una cosa, insomma, per puro piacere, per la voglia di fare, non, no, a casa, starei a casa mia, a sentirmi i dischi in tranquillità, insomma. Senti, il palinsesto sarà H24? No, no, no, no, no, purtroppo no, avremo circa 15 ore di diretta al giorno, Che la notte fascia? manderemo le repliche, oppure manderemo delle selezioni musicali molto mirate, con delle scelte particolari, insomma, poi ognuno la musica la vede come meglio crede, che secondo noi sono mirate. Faremo dei, che ne so, degli speciali che ne so, sulla musica elettronica, piuttosto che sulla musica alternativa, piuttosto che sulla musica classica del rock, sugli anni 60, gli anni 70, i cantautori, tra virgolette, i nuovi cantautori, la musica indie. Parleremo anche di trap, perché no? visto che è una realtà e su questo uno ci si deve confrontare, perché se poi uno la rifiuta a priori, insomma, non fa un buon servizio alla musica. Sì. Ecco, proprio rispetto alla musica, che tipo di scelta avete alla base? Alla base non c'è la scelta di l'autonomia di ognuno di poter mettere quello che meglio crede, non c'è una linea editoriale dal punto di vista musicale, insomma, Sì. c'è il libero arbitrio assoluto. L'unico denominatore comune è che sia possibilmente buona musica, insomma, poi ripeto, anche lì è un problema di punti di vista, insomma, ecco. Sì. Senti, come funzionerà? Ogni DJ o persona coinvolta avrà un'ora a disposizione per il palinsesto? No, saranno tutte fasce da 3 ore. Fasce da 3 ore. Sì. Perfetto, Sì, perfetto. anche perché credo che in un'ora, insomma, tu fai radio e quindi lo Sì, sai benissimo, sì, insomma, sì. in un'ora se fai una rubrica, nel tuo caso credo cinema se non sbaglio, Sì. un'ora va anche bene per sciorinare settimanalmente le cose che escono oppure per approfondire delle cose, ma se devi parlare di musica un'ora non fai in tempo, cioè metti 10 dischi e hai finito. Allora, un'altra curiosità per una radio che nasce dal basso, chiaramente, è quella del finanziamento. Ecco, come fate fronte a questo aspetto? Guarda, all'inizio ci siamo autofinanziati Sì. e poi, insomma, alla buona volontà di chi vorrà sottoscrivere per la radio. Noi non possiamo fare pubblicità, per cui è solamente una questione di chi ci ascolta, gli piace la radio e allora fa dei, che ne so, dei versamenti. Adesso non, neanche ci ho pensato in realtà. Era l'ultima cosa, però Sì. insomma faremo con PayPal adesso non so Certo, bene, però certo. ecco sì, è fondamentalmente questo. In questo senso avete pensato anche ad eventi culturali, sociali Sì, per... faremo degli eventi sociali, faremo degli eventi culturali, faremo dei piccoli live set nel nostro studio, inviteremo pubblico, insomma, non tantissimo perché gli studi non sono grandi, insomma, sono abbastanza piccoli, quindi potranno sottoscrivere con quello che vogliono, certo. Gli studi dove sono? Gli studi stanno a Torpigna, Ok, all'acqua bollicante, via dell'acqua bollicante. allora cominciate dal 15 ottobre, ci sarà anche un'apertura ufficiale, un momento pubblico. No, al momento no, perché stiamo ancora sistemando tutto, come tu ben sai, quando Sì. c'è una sorta di inaugurazione, le cose succedono sempre negli ultimi giorni, quindi stiamo sistemando le ultime cose, probabilmente faremo una piccola festicciola con alcuni ascoltatori sempre lì o da qualche altra parte o in qualche associazione per poter condividere, insomma, questa nostra piccola iniziativa. Non è una cosa grande, è una piccolissima radio, però insomma ci rende orgogliosi e soprattutto felici, perché fare cose è la cosa più bella. Poi se uno le fa piccole o grandi ha poca importanza, la cosa fondamentale è fare, perché tanta gente parla e invece a me mi piace parlare poco, anche se mi piace parlare alla radio, ma quello è un altro punto di vista, un altro paio Certo, di mani. Mi certo. piace fare le cose, Sì. ripeto, è una piccola radio, non è niente di straordinario, però per noi è una grande cosa, insomma, un grande traguardo. Questa denominazione radioelettrica? Ma guarda, è stata una battaglia perché io la volevo chiamare Radio Elettra, poi no, c'è Scuola Radio Elettra, non va bene, eccetera, e alla fine è uscito Radio Elettrica. Una cosa molto, come dire, molto viva, ecco, per in soldoni. Allora, immagino che ci sia anche tutto un corollario di social network. Ci dai tutti i riferimenti a partire proprio dalla radio? Sì, il www.radioelettrica.it e poi tutti i social network, Instagram, Twitter, Facebook, che ne so, anche Vero, addirittura stiamo per aprire un canale su Vero, non so a quanto possa servire, però insomma anche su Vero e su tutte, insomma, poi le piattaforme, sempre cercando Radio Elettrica. Allora, un saluto, un ringraziamento, un in bocca al lupo e ci sentiamo per le prossime novità. Sicuramente sì. grazie, è stato davvero un onore e un piacere partecipare. Ricordiamo Radio Elettrica online dal 15 ottobre. Un saluto e ringraziamento a Prince Faster, che è una delle anime che hanno dato vita a questo progetto. Prince, un abbraccio e a presto. Un abbraccio e grazie a voi, grazie. Ciao. Tantissimo. Ciao. Ciao.